vorrei lavorare e invece faccio l'insegnante. Marco, cosa avrà voluto dire? Sì, perché mi sembra un lavoro. Un lavoro, così, anche ecco. Un bel lavoro.